Allora, per iniziare la serata, siccome l'argomento è bello pregnante, mi sono dovuta fare gli appunti e ce li ho sul telefonino, quindi dovete scusarmi, ma per presentare il nostro tavolo di lavori questa sera volevo anche avere le informazioni giuste e corrette. Perché si tratta del secondo incontro che noi stiamo realizzando in una mini rassegna che si intitola Noi e il denaro e che vuole fare il palio vuole fare il pari con un'altra rassegna che portiamo avanti da anni, che è Noi e la storia, no? Questa inclusione che la biblioteca continua a sottolineare e questa volontà anche di ampliare un po' il raggio d'azione per offrire al nostro pubblico sempre nuove sollecitazioni, nuovi interessi e nuove curiosità da scoprire, da approfondire attraverso sempre la lettura, perché questo poi è anche il nostro scopo. E qui abbiamo anche raccolto delle prime suggerimenti bibliografici legati al tema di questa sera. Noi il denaro, perché in realtà con l'avvocata Maines che qui trovate, e adesso vi dico anche subito tutto quanto, perché mi hanno dato anche le indicazioni precise. Ecco, e ci tengo anzi a essere precisa in questa occasione in particolar modo. Vediamo un po'. Questa sera ci presenta questo ciclo insieme al dottor Ivo Morelato, che è della Camera di Commercio, è referente appunto per quanto riguarda l'argomento poi che questa sera tratteremo, e l'avvocata Leonora Maines, che è la stessa referente del OCC, e poi ci spiegherete bene nel dettaglio, dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, nonché gestore delle crisi del sovraindebitamento e gestore ex articolo 356 CCI. Io mi sono attenuta scrupolosamente a tutte le indicazioni. Come trade union, come elemento di continuità rispetto alla prima serata, c'è con noi Marco Pugliese che insegna all'Università, alla Facoltà di Scienze della Formazione a Bressanone, l'economia finanziaria, e poi ci dirai anche il tuo ruolo, il tuo compito. Ringrazio e saluto Andrea Bonoldi che l'altra volta invece ci ha fatto l'introduzione storica. E a questo punto lascio la parola direttamente ai nostri ospiti, che ringrazio ancora perché ci hanno aiutato a realizzare un momento di formazione, secondo me anche utile per la cittadinanza, per scoprire alcuni aspetti, forse non sempre molto noti, ma importanti ed utili proprio come servizio civile, come servizio pubblico, che è un nostro, diciamo, motto, vero Eleonora? Mi permetto di dare del tuo alla nostra ospite. Va bene. Allora, grazie, vi lascio in compagnia dei nostri ospiti e ci vediamo dopo per le domande. Grazie. Allora, rompo io il ghiaccio e poi lascerò la parola agli altri due ospiti. Rompo il ghiaccio e faccio da trade union. Chi è stato alla scorsa conferenza ha assistito alla bellissima lezione del professore che ci ha fatto un excursus e un viaggio storico. E il mio, tra virgolette, compito qui invece è creare un ponte tra la parte storica che ha trattato il professore, l'attualità, e poi la parte più tecnica che sarà poi gestita dai colleghi. E io sono partito da qualche dato. E vi spiego anche perché in un'università che di fatto per tutti è più umanistica che tecnico-economica, si insegna soprattutto sul tirocinio, quindi sugli insegnanti in formazione, l'economia e l'educazione finanziaria in realtà più che l'economia, perché ci sono dei dati un po' particolari. Si parte dalla fragilità economica delle famiglie italiane, però quello che interessa più che altro a noi è dare una educazione nuova anche sia ai giovani ma anche alle persone più adulte. Infatti è stato strutturato questo laboratorio universitario che avete visto prima il logo, si chiama l'AB, che è un laboratorio che all'interno fa formazione sia per gli studenti sia per le persone che sono al lavoro. Noi abbiamo fatto dei corsi sperimentali all'Università di Bolzano 2 anni fa, Economia per Tutti, dove abbiamo messo insieme insegnanti insegnanti di scuola in servizio e lavoratori anche di altri settori che hanno lavorato in gruppo e hanno fatto dei lavori particolari con noi, insomma, eccetera. Quindi era economia per tutti, quindi siamo stati su questi obiettivi. E ora siamo in un periodo di vulnerabilità economica, quindi le scelte di questo tipo devono essere più ponderate rispetto a un tempo, e mi duole dirlo che anche i miei studenti, quindi ragazzi che sono preparati su tanto, hanno delle fragilità economiche. Ad esempio, in una lezione hanno voluto capire cosa fosse il 730, che per alcuni è qualcosa di, ma per questi ragazzi non era così scontato. Poi c'è un altro problema: in Alto Adige abbiamo comunque una terra ricca che ha però un impatto con gli stipendi un po' particolare, quindi le domande che vengono sono anche queste: come mi gestisco il mio stipendio? È diverso poi da quello che faranno e che vi spiegheranno dopo. Qui parliamo di casi standard e di persone che non hanno ben chiaro cosa sia, ad esempio, una comprare gli occhiali a rate. Perché devo comprarli a rate? Il problema non sono gli occhiali, sono le vacanze. Per statistica, ultimamente gli under 30 si indebitano per andare in vacanza, il che è un po' strano, perché mia nonna con la quinta elementare non l'avrebbe fatto questo ragionamento. Quindi dobbiamo intervenire. Queste slide io le avevo preparate, poi ve le lascerò. Stiamo lavorando anche su questo, quindi su una parte della popolazione un po' più adulta. Infatti c'è questo libro della collega Gina Chianese, che l'educazione permanente entra anche l'educazione finanziaria in questo. Io ho portato questo come bibliografia, e l'apprendimento centrato sull'adulto. Ecco, questa si parla di andragogia, e quindi il contrario della pedagogia sarebbe. Ci rivolgiamo a un pubblico anche adulto, è più complesso perché gli adulti hanno degli schemi già preconfezionati, perché hanno un vissuto che i ragazzi più giovani non hanno. Quindi ci vuole un altro tipo di didattica e di pedagogia. Dewey viene utilizzato perché parte dall'esperienza concreta. In questa sala tutti avrete fatto un affitto, un contratto di mutuo, insomma, quello che è, partire dalle esperienze. Questo è il nostro modo di lavorare, e la riflessione semmai c'è sull'esperienza. A mio modo di vedere, grazie a tecniche di questo tipo mettiamo insieme sia già chi lavora che chi andrà a lavorare, per fargli interconnettere. Per quello avevamo creato questo corso con esperti di economia, ma anche esperti di pedagogia, quindi che inseriscano anche un'etica all'interno, quindi non solo il business. E adesso qui vi ho messo alcuni esempi. Per esempio, un superamento della didattica trasmissiva è importante, perché se noi dessimo una serie di nozioni andremo solamente a ragionare su chi poi, no, queste nozioni le va a studiare, lasceremo fuori tutta la platea che magari, anche perché non ha magari dei mezzi anche per conoscere alcune questioni, quindi le devi spiegare anche in un altro modo, e lavorando in laboratorio abbiamo visto che funziona un po' meglio. E vabbè, poi c'è il solito Vygotsky, che è un po' una pietra miliare, ha questa costruzione. Quindi l'apprendimento mediato dal linguaggio è molto importante, come ci si pone. Adesso se vai in banca ti danno un questionario e ti chiedono: tu quanta ne sai di educazione finanziaria? Di fatto a scuola è diventata obbligatoria, dal prossimo anno in ogni ordine e grado, dalla prima elementare fino alla quinta superiore, sarà obbligatorio per i colleghi farla, motivo per cui facciamo anche formazione su adulti che vanno a insegnare. Attenzione, non insegnanti di economia, anche insegnanti di italiano, insegnanti di storia. La storia, come ci ha fatto vedere il professore l'altra volta, è un bel ponte, perché è importante conoscere come si è arrivati a determinate. Ecco, poi vado avanti perché l'applicazione è molto semplice di quello che trattiamo noi, che sono gradini prima di quello che trattano loro, ma è una semplice, può essere una simulazione di un bilancio familiare. Ci è capitato di andare in qualche albergo a fare qualche lezione, perché i nuovi lavoratori, pensate, non sapevano gestire il proprio stipendio. Guardate che è una cosa abbastanza particolare parlare con un ragazzo di 28 anni che non riesce a capire bene che cosa fare dello stipendio mensile. Ripeto, gli anziani di un tempo non gli serviva il mio corso di educazione finanziaria, che non si andavano a schiantare con ragionamenti un po' particolari. Quindi dobbiamo rimetterci un attimo in discussione. Quindi sono state fatte delle simulazioni di progettazione personale di obiettivi finanziari, che sembra una cosa banale magari per tutti voi, ma che in realtà per molti ragazzi anche più giovani non è banale. E guardate che lì avevamo un background migratorio che non era molto alto in questo albergo, quindi erano quasi tutti ragazzi italiani. Il che, mi viene da dire, hanno frequentato le scuole da noi, Quindi qui abbiamo un buco e infatti Banca d'Italia, eccetera, ce lo hanno fatto notare. Anche Banca d'Italia sta facendo infatti della formazione, la fa anche con noi. Educazione finanziaria come competenza di cittadinanza, quindi rientra, prevenzione del rischio economico, alleanza scuola-famiglia-territorio e formazione continua dei docenti. Io dico di tutti gli adulti, oltre che dei docenti. Vabbè, qui vi ho messo... Ecco, come la trattiamo questa roba insieme ai ragazzi o a persone? Utilizziamo degli esempi che sono positivi. Quindi in questo caso è Amadeo Giannini, quello che ha fondato Bank of Italy, che di fatto, pur che lui ha fondato una banca, però ha dato la possibilità ad immigrati molto poveri, italiani, perché lui era americano, italo-americano, di costruirsi un futuro, e questo futuro ha dato modo a lui di diventare molto ricco, anche se poi lui ha rinunciato a tutto e si è tenuto solo $1 milioni. E diciamo che lui aveva come base l'accesso al credito come leva di mobilità sociale, che non è una cosa così scontata, e la finanza era al servizio della comunità. Poi c'era un collega, mi pare che è qua in sala presente, se non mi sbaglio, ieri, che insegna anche una materia come la religione, che l'ha collegata molto a discorsi che si facevano nel Medioevo, quindi prestare soldi senza interesse. Come vedete, anche una materia che sembra distante invece ha molto a che fare, ce l'ha spiegato il professore l'altra volta quando spiegava anche, dipende dalla religione, eccetera. Quindi come vedete è tutto abbastanza incastrato. L'altro esempio, questa è stata una mia idea, ve lo dico perché Modigliani è l'unico premio Nobel italiano, quindi ogni tanto dovremmo tirar fuori anche qualche nostra eccellenza, ma in realtà la sua teoria del ciclo di vita, quindi col consumo distribuito nel tempo, è una teoria interessante che può avvicinare anche al mondo dell'economia. Quindi non è una teoria così complessa che non può essere spiegata, ma che può essere diciamo elargita con delle parole un pochino più semplici. Quindi l'importanza del risparmio programmato, una stabilità familiare finanziaria, vi garantisco che se parli con le famiglie di molti alunni delle scuole elementari e medie ti rendi conto che questa stabilità finanziaria non c'è e che quindi queste persone per forza le dovresti rimettere all'interno del ciclo della formazione. Ok, noi viviamo in un periodo storico complesso di formazione continua, con l'intelligenza artificiale questa cosa diventerà sicuramente peggiore, perché dovrai essere continuamente formato per poterti reinserire nel mondo del lavoro. E questo aspetto qui, a mio avviso, passa anche da questi concetti. Quindi non devi rimanere bloccato, cioè non farai sempre quel lavoro di spostare, fare oppure parlare in un certo modo. Anche il lavoro di noi docenti sta cambiando. Difficile dare un elaborato e non usino l'intelligenza artificiale, tant'è che io do degli elaborati e dico: se la usate me lo dite e poi ne discutiamo come l'avete usata, cosa che fino a 2 anni fa era fantascienza. Molti colleghi lo stanno iniziando a fare, perché devi capire come la usano, anche perché chiedono all'intelligenza artificiale molte persone anche questioni di tipo finanziario, come guadagnare, come fare trading, come risparmiare. Ci sono poi le applicazioni delle banche che sono gestite da un programma di intelligenza artificiale tarato su certe teorie economiche, per esempio, anche su quello si potrebbe. Comunque, qui vi ho messo le fasi della teoria di Modigliani, più che altro perché parla di redistribuzione, forse la redistribuzione anche della ricchezza è un tema che oggi a livello geoeconomico e geopolitico è trattato, no? Come vedete abbiamo anche un'attualità molto complessa, un presidente degli Stati Uniti che ragiona in modo molto commerciale, molto da venditore: mi serve una risorsa, la conquisto, fuori dal diritto internazionale, dentro il diritto internazionale, Board of Peace, è tutto mosso però da un motivo economico. Quindi le persone molte volte sono spaesate davanti a queste scelte, perché non, oggettivamente, avete visto la Corte americana gli ha dato torto, nonostante fossero repubblicani. Questo però vi do una buona notizia, significa che la democrazia americana comunque funziona. Questa non è una brutta notizia. Quindi il discorso dei dazi, che poi sono stati interpretati in un certo modo e in alcune parti degli Stati Uniti li hanno girati in un altro modo, però hanno creato dei danni, quindi l'ideologia in questo caso di dire no, ma io ci ho guadagnato fino adesso, non ci voglio più perdere, no, un discorso altamente commerciale con al centro il business. E non eravamo abituati che un presidente americano ragionasse propriamente così, in caso te la edulcoravano un pochino, ma non ti dicevano mi serve la Groenlandia, no? Quindi questo diventa un problema se hai degli attori anche internazionali, oppure Putin che punta molto sulla forza, anche lui sull'economia, l'Unione Europea che comunque è fondata su moneta e su questioni di tipo più economico e meno di popolo, ed è uno dei motivi per cui molti non se ne riconoscono, e quello alla lunga è un problema, perché non riusciamo a contrapporci agli americani e cinesi, perché andiamo divisi, perché guardiamo l'interesse. Quindi capite, non c'è solo l'educazione finanziaria come materia, non devo spendere tot soldi o non devo stare, c'è proprio una questione di sistemica che forse ci è un po' sfuggita di mano, perché pensavamo che la società andasse in certe direzioni. Per esempio, nella teoria di Modigliani è ovvio che la stabilità dei redditi favorisca la pianificazione, è ovvio che gli shock economici alterano il modello in cui sei, no? Siamo tutti nati in un modello, poi c'è stato lo shock del 2011, lo shock del 2007, lo shock del 1929 che poi ha portato anche alle guerre, di fatto anche quello, siamo passati anche da lì. Quindi sono dei fattori macroeconomici che comunque, se spiegati anche alla popolazione, la rendono consapevole. Nessuno chiede di creare teorie economiche, ma chiede di conoscere. Poi ci sono anche dei limiti però. Quindi è giusto dare la teoria, ma dare anche la sua antitesi, dare anche il suo lato non propriamente chiuso, quindi i limiti del modello. E qui si può aprire un dibattito, oggi non è una lezione, se no in questo caso io faccio fare proprio un dibattito tra chi è a favore di un modello e chi è contro un modello. Ai miei studenti l'ho fatto fare ed è venuto fuori qualcosa di interessante. Interessante poi anche ribaltare la situazione. È per quello che dico che la formazione per adulti è importantissima anche in questo periodo storico, perché nessuno si può sentire finalmente arrivato, nonostante le lauree, i titoli, i corsi, eccetera. Siamo tutti molto vulnerabili in realtà, anche chi millanta, siamo sotto una continua lente di ingrandimento, soprattutto con i social network, un internet delle cose, no? Che ci entra in casa rispetto al passato. Questi sono i piani d'applicazione, tra un po' concludo, quindi il pianificazione di lungo periodo, la costruzione di un fondo di emergenza che un tempo le famiglie facevano e che adesso tendono a non fare, ma non perché non vogliono farle, perché non arrivano al fine mese da mettervi a tot. Con la consapevolezza intertemporale delle scelte, anche questa è una cosa che sembra banale ma non lo è, e poi c'è una riduzione, tutto questo dovrebbe portare a una riduzione della vulnerabilità economica e familiare, che dovrebbe essere fondamentale. Vabbè, qui vi ho messo un cenno della Modigliani-Miller, giusto perché l'ho citato. Questi sono altri esempi di persone che hanno fatto una costruzione economica. Qui Enrico Mattei ha costruito la cooperazione internazionale, vendeva il petrolio, estraeva petrolio e lo faceva reinvestire nel paese in cui veniva estratto, quindi non all'inglese col 50-50, non alla francese col 50-50. Mattei infatti l'hanno fatto fuori, perché se andiamo a vedere ogni persona che ha provato a mettere mano all'energia in Italia, ha fatto una Moro, Mattei, Pasolini, che comunque ha scritto petrolio, vi consiglio di leggerlo perché molti, anche a scuola forse lo facciamo un po' troppo poco, e per esempio aveva messo l'energia come base dello sviluppo industriale, il boom economico, eccetera eccetera. La conclusione deve essere quella che la conoscenza economica ci porta a una libertà decisionale, quindi le famiglie più sono resilienti e più abbiamo dei territori che sono forti. Attenti, non sono forti se il PIL è alto, non è detto che il PIL alto sia consapevolezza finanziaria, Può darsi che siano tutti ereditieri, quindi è un parametro che a noi non interessa. È la formazione adulta, è la formazione che porta a una cultura economica. Quindi dal nostro punto di vista questo tipo di approccio dovrebbe evitare che una persona vada a sperperare quando non serve il proprio piccolo grande patrimonio che sia. Io ho concluso, sono stato nei tempi, come promesso, lascio a voi adesso la parola più tecnica. E spero di non avervi annoiato. Bene, buon pomeriggio a tutti. E innanzitutto io voglio ringraziare la dottoressa Trevisan per l'invito alla Biblioteca Provinciale, perché ci dà l'occasione di dare un contributo su un tema che riteniamo essere di grandissima rilevanza sociale. Ringrazio ovviamente tutti voi presenti perché per la dimostrazione di interesse verso questo tema. Se ne parla ancora troppo poco, secondo noi. Adesso siamo stati presentati io e il dottor Morelato come referenti degli OCC, rispettivamente dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano, la sottoscritta, e della Camera di Commercio, il dottor Morelato. Ora vi spiegheremo che cosa sono gli OCC, ma quello che vogliamo anche evidenziare è che noi stiamo cercando di sensibilizzare la cittadinanza su questo tema, lavoriamo in modo sinergico perché gli OCC non hanno uno scopo di lucro, hanno uno scopo sociale, quindi cerchiamo proprio di fare conoscere questi strumenti in modo tale che la popolazione possa utilizzarli se ritiene di averne i presupposti. E quindi di cosa vi parleremo oggi? Innanzitutto, essendo che il tempo a disposizione è contenuto, voi sapete alle 19 dovremmo concludere, quindi vorremmo anche lasciare spazio alle vostre domande. La materia è molto complessa e vogliamo oggi assolutamente evitare di entrare in questioni tecniche, piuttosto cercheremo di darvi delle informazioni, sperando che possano essere proprio utili per capire come ci si rivolge agli OCC e che cosa sono. Infatti la scaletta che abbiamo preparato è questa. Vi diremo cosa è il sovraindebitamento, qualche dato statistico sui dati che ci sono in Alto Adige, le cause del sovraindebitamento, gli OCC, qualche cenno sulle procedure, chi può accedere, come si può accedere agli OCC, qualche breve cenno sulla normativa e poi ci piacerebbe riuscire ad avere del tempo per illustrare qualche caso concreto. Allora, partiamo da questa definizione, una definizione ovviamente non proprio tecnica, abbastanza generica. Il sovraindebitamento indica l'incapacità di gestire regolarmente i pagamenti dei debiti personali o aziendali. Allora, questa slide è molto significativa, questa foto è molto significativa. Voi vedete che da una parte c'è la crisi del debitore o della debitrice, quindi ci sono le esigenze di un soggetto che si vorrebbe liberare dai debiti, quindi un soggetto che è in una situazione di difficoltà, e voi sapete che in queste situazioni ci sono sofferenze, cioè vengono coinvolti anche aspetti non solo economici ma anche emotivi di salute e quant'altro, quindi le condizioni della persona. Dall'altra parte abbiamo però la legittima aspettativa e la pretesa del creditore o della creditrice, cioè dall'altra parte chi deve ricevere dei soldi chiaramente ha un'aspettativa legittima. Sono due interessi che sembrano confliggenti. Ora, l'obiettivo è proprio quello della normativa di trovare un punto di equilibrio, ecco perché c'è il puzzle e si spinge da una parte e dall'altra per trovare un punto di equilibrio tra queste due esigenze. Adesso il dottor Morelato vi esporrà qualche dato statistico. Grazie, buonasera anche da parte mia. Io approfitto dei primissimi dati statistici che il professor Pugliese ha già presentato per farvi notare un attimino alcuni dati a livello locale, quindi parliamo di Alto Adige. Come si misura un'eventuale situazione di sovraindebitamento? Per ora non si misura, non abbiamo ancora una massa critica e quindi non siamo in grado di dire quant'è il vero bacino di utenza di questi servizi. Però, guardando un po' quello che dicono Astat e Eurostat, abbiamo provato a vedere alcuni parametri. C'è un parametro medio che parla di rischio povertà, questi sono i dati più aggiornati, sono riferiti al 24, però il rischio povertà è dato da tanti parametri, sono 13 almeno per quanto riguarda Eurostat, quindi questo è un parametro medio. Quindi se noi diciamo rischio povertà in Alto Adige, dobbiamo fare un calcolo, sono poco più di 30.000 persone che potrebbero rientrare in questo. Attenzione, è un potenziale rischio. Queste sono 30.000 persone che probabilmente vivono serenamente in una situazione di assoluto equilibrio, hanno un reddito magari non altissimo ma sanno gestirlo bene, e in una situazione di difficoltà magari neanche vengono da noi perché hanno parenti, amici che possono dare una mano e quindi andare avanti. Quindi questo parametro ci dice quale potrebbe essere un potenziale rischio, ma non ci dice ancora di persone sovraindebitate. Stessa cosa se andiamo a vedere le famiglie che non sono in grado ad affrontare una spesa imprevista. Si parla, sempre a livello di Eurostat, per l'Alto Adige, di un potenziale bacino di utenza di un 14-16% di famiglie, circa 90.000 persone, quindi sembrerebbe un dato molto alto, però anche questo non ci dice niente di più, ci dice soltanto che ci sono delle persone che vivono serenamente, ma che in caso di grosse difficoltà dovrebbero dare un'occhiata a come muoversi sul mercato. Questo invece è un po' più grave, queste sono già persone probabilmente in una situazione di sovraindebitamento. In Alto Adige le statistiche ci dicono che ci sono almeno 2.500 persone che in questo momento non sono alla pari con i pagamenti, quindi sono un po' indietro con affitti, bollette o cose di questo genere. Anche questo ancora non è indice di sovraindebitamento, ci sono delle persone che sono in ritardo su dei pagamenti. Piccoli imprenditori che aspettano i soldi che devono ancora arrivare dai loro clienti, famiglie che semplicemente si sono dimenticate una rata di spese condominiali al primo sollecito pagano, questo non lo sappiamo. Però queste 2.500 persone potrebbero essere a rischio sovraindebitamento. E che cosa ci porta al sovraindebitamento? Ci sono una serie di situazioni che adesso andiamo ad analizzare insieme, ci siamo strutturati il nostro intervento in forma di dialogo, queste sono situazioni che arrivano dal nostro archivio. Sì, allora ancora una curiosità, abbiamo partendo da uno studio della Banca d'Italia, abbiamo delle situazioni diffuse, sono degli alert del sovraindebitamento, tra questi abbiamo una spesa mensile per prestiti erogati superiore al 30% del reddito mensile. Nel caso in cui oltre il 25% delle entrate è destinato a pagare debiti non garantiti, in presenza di fitti arretrati pari o superiori a 3 mesi e in caso di pagamento di debiti tali che le risorse residue sono insufficienti a sostenere le spese dell'ordinaria vita familiare. E questo come stato di povertà. Ora, sui motivi, i motivi del sovraindebitamento sono i più vari. Noi partiamo dalla nostra esperienza di OCC, cioè noi andiamo a vedere concretamente, in base alle domande che arrivano agli OCC, quali sono in quei casi le cause del sovraindebitamento. Abbiamo riscontrato come cause a volte la perdita del lavoro, a volte situazioni di malattia, il decesso di un familiare, situazioni di separazione e divorzio. La crisi familiare incide spesso incide fortemente anche, perché voi sapete che quando c'è una situazione di crisi, magari una separazione o un divorzio, c'è la necessità per uno dei coniugi di trovare un altro alloggio, ci sono poi tutte le esigenze di contribuire al mantenimento dei figli, se non anche dell'ex coniuge, quindi in un certo senso aumentano anche le spese, possono creare questi anche dei problemi di sovraindebitamento. Patologie. Allora, ludopatia, tossicodipendenza. Allora, sulla ludopatia, ecco, questo vi farei anche un cenno concreto, ho selezionato delle sentenze, il Tribunale di Torino, ad esempio, è una sentenza del 2016, qui è proprio un caso in cui c'è un soggetto che ha in questo caso una patologia psichiatrica, la ludopatia, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure. Quindi ne tengono conto come causa di sovraindebitamento incolpevole, in questo caso il Tribunale. Poi però non sempre situazioni di questo tipo sono considerate dal Tribunale meritevoli di tutela. Ad esempio abbiamo il Tribunale di Mantova, 5 settembre 2019, è il caso di un soggetto che è dedito al gioco d'azzardo. Questo non è in chiave patologica, quindi non è attestato. In questo caso il Tribunale dice deve ritenersi che il ricorrente abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, ricorrendo quindi l'ipotesi di cui eccetera. Tribunale di Vicenza, una sentenza del 2020, anche in questo caso c'è una situazione di ludopatia documentata dalla soggezione a programmi terapeutici del recupero, come da dichiarazione rilasciata dalla psicologa e dal responsabile di riferimento, e quindi per questi motivi i giudici rigettano il reclamo di una banca che si è opposta all'omologa di questa procedura e quindi hanno ritenuto meritevole il soggetto perché ha sostanzialmente una patologia. E poi accesso troppo facile al credito. Adesso abbiamo usato questo termine molto generico. Che cosa significa? Significa che qualche volta i soggetti già sovraindebitati, quindi consapevoli della loro situazione di difficoltà, ricorrono ancora al credito. Qui si apre un tema molto complesso che oggi non abbiamo il tempo di affrontare, che è quello che riguarda il merito creditizio, cioè quella che è l'analisi che la banca fa quando un soggetto si chiede di concedere un credito. In ogni caso, i soggetti che diciamo si attivano in questo modo e pur consapevoli della loro situazione continuano ad indebitarsi, spesso non sono ritenuti meritevoli di esdebitazione, ma questa è una delle cause che spesso ricorre. E abbiamo scritto eccessiva cessione del quinto. Cosa significa? Allora, voi sapete che è possibile, quando si hanno dei debiti, decidere anche di cedere volontariamente una quota dello stipendio al creditore. Quindi viene ogni mese viene questa quota sottratta dallo stipendio e viene data ai creditori. Questa è una cessione volontaria. Abbiamo anche l'altro caso dove del pignoramento, si chiama pignoramento del quinto, dello stipendio, dove invece un creditore che ha un titolo esecutivo e già può agire esecutivamente nei confronti del debitore si attiva e va, quindi si attiva con le procedure esecutive, e in questo caso pignora lui in modo coattivo il quinto dello stipendio, una quota dello stipendio. Ecco, in questi casi abbiamo riscontrato che ci sono persone che magari hanno già un quinto dello stipendio pignorato, ciò nonostante operano delle cessioni volontarie, cioè chiedono finanziamenti ulteriori vari e poi si impegnano con delle cessioni di una quota dello stipendio. Anche in questi casi spesso ricorre una situazione di sovraindebitamento dove le persone non sono più in grado di far fronte alle loro esigenze proprio di vita. Quindi sono situazioni, diciamo, economico-patrimoniali che spesso funzionano se non ci sono degli imprevisti, però basta che accada un evento imprevisto, non imprevedibile ma imprevisto, e in quel caso succede che la persona rimane coinvolta, cioè ha troppi debiti e non ce la fa più ad andare avanti. Tenete presente che agli OCC si presentano persone disperate, c'è anche un aspetto umano da tenere in considerazione, sono persone che oramai non ce la fanno più, spesso arrivano anche quasi troppo tardi perché non conoscevano magari dell'esistenza di questi strumenti, per cui sarebbe è molto importante che se ne parli, si sappia che esistono e che le persone comincino a essere consapevoli delle loro situazioni finanziarie, delle loro difficoltà economiche in tempo utile per poter poi attivare questi strumenti in modo, diciamo, positivo. A questi motivi strettamente personali, noi come Camera di Commercio abbiamo notato che se ne aggiungono alcuni invece legati di più all'attività imprenditoriale. Per questo che noi appoggiamo tantissimo anche il progetto di formare i giovani, perché gli studenti di oggi saranno probabilmente gli imprenditori di domani, quindi è necessario evitare magari il ripetersi di errori che stanno avvenendo in questo momento, perché noi abbiamo notato all'interno di alcune imprese i conflitti tra i soci, per esempio, o i conflitti della famiglia nell'impresa, delle volte generano poi una specie di sabbia nell'ingranaggio e l'impresa non funziona più bene. Noi abbiamo visto situazioni dove, per esempio, l'impresa familiare, mamma, papà, figlio, funzionava benissimo, figlio si sposa, entra la moglie in azienda, o viceversa, la figlia si sposa, entra il figlio da fuori in azienda, elemento estraneo, non gradito alla famiglia, nascono conflitti, l'impresa non va più bene, non funziona più il business plan originariamente stabilito, nascono dei conflitti notevoli con costi e ovviamente con tutto quello che ne consegue, i lavoratori se ne accorgono che l'azienda non va più bene, i fornitori se ne accorgono e piano piano si scivola in una situazione difficile. Ma anche errori imprenditoriali fatti, perché l'imprenditore spesso è mosso da tanto entusiasmo, ha un'idea, tende a svilupparla, però magari rischia di non valutare bene tutti gli aspetti, la creazione dell'impresa, alcune spese impreviste, già il notaio, l'acquisto di un capannone, avere il capitale per partire, perché uno dice vabbè, mi serve X capitale, lo prendo in prestito e riesco a partire, sì, però se lo prendo in prestito devo pagarci gli interessi, quindi il business plan deve essere molto dettagliato, capire quali sono le spese alle quali vado incontro e come riesco a farvi fronte. E poi soprattutto bisogna considerare che il mercato, se è tanto bello che io voglia di entrarci come imprenditore, è facile che entrino anche altri imprenditori e di colpo potrei avere una situazione di concorrenza che prima non avevo valutato e perdere entrate e quindi il mio business plan non funziona più. Oltretutto, ovviamente facendo un'attività imprenditoriale, io rischio delle sanzioni, posso commettere in buona fede degli errori, basta una cartella esattoriale pagata in ritardo, già ho una sanzione, oppure possono esserci anche degli incidenti. Purtroppo abbiamo visto delle situazioni di responsabilità extracontrattuale dovute magari a incidenti sul posto di lavoro che poi hanno tutto un loro percorso e generano spese. Tutto questo, se non è adeguatamente previsto, può rientrare in quelle situazioni impreviste che sono prevedibili perché lo diciamo, però se capitano poi succede il guaio. E perché ci è servita una legge? La direttiva europea, la famosa direttiva Insolvency, che sostanzialmente regola un po' le varie norme che sono uscite soprattutto dopo le crisi finanziarie 2008-2009, che cosa ci dice la direttiva? La direttiva parla principalmente di imprese, però invece della parola impresa possiamo metterci anche la parola famiglia. Cioè un'impresa per il sistema economico è utile se funziona, perché l'impresa dà posti di lavoro, genera ricchezza, genera gettito fiscale, ne siamo tutti contenti. Quindi è importante che un'impresa che è in difficoltà venga risanata, piuttosto che liquidarla ed eliminarla, perché quello sarebbe un costo per tutta la società. E poi l'insolvency, l'Unione Europea parla tanto di seconda opportunità. L'imprenditore onesto, ma che è stato sfortunato per una sua condotta onesta, brava, corretta, ma purtroppo non efficace, è giusto dargli una seconda opportunità. Non tante di più, l'Unione Europea parla di due opportunità, perché se alla terza uno non ha imparato, allora forse è meglio che cambi mestiere. Però la persona che si comporta bene e ha un incidente è giusto che possa avere una seconda opportunità, ovviamente in equilibrio con chi legittimamente sta aspettando i soldi, perché è molto probabile che un grosso fornitore, come può esserlo lo Stato, come può esserla la banca, come può essere una grossa azienda, un ritardo di un pagamento lo può forse anche sopportare per un po' di tempo, ma se pensiamo a non pagare i nostri collaboratori che a loro volta hanno un mutuo, o a non pagare il piccolo fornitore che a sua volta deve pagare i suoi lavoratori, beh, stiamo creando un effetto domino che crea un problema a tutto il sistema. Quindi un intervento veloce, equilibrato e soprattutto quello che è importante è prevenire abusi. Lo abbiamo detto, chi viene da noi spesso è già molto in ritardo, è disperato, è una persona disperata pur di tutelare la propria azienda o la propria famiglia, è un terreno purtroppo facile da conquistare per malintenzionati. E tutto questo ci viene incontro una normativa che adesso andiamo a vedere. Ecco, allora chiaramente questo è un aspetto tecnico molto molto complesso, veramente sarò estremamente sintetica. La normativa, la disciplina del sovraindebitamento è stata introdotta in Italia con la legge 3/2012, è nota perché si chiama la legge salva suicidi. Questa legge però, come vedete anche sulla slide, riguarda anche l'usura e l'estorsione. E si trovava al di fuori della legge fallimentare. Noi abbiamo Regio Decreto del 42, avevamo, era la legge fallimentare, e poi avevamo la legge 3/2012 che riguardava il sovraindebitamento, quindi le famiglie, le persone e le imprese minori e quant'altro. La legge fallimentare è stata poi sostituita dal codice della crisi d'impresa, eccolo lì, abbiamo il decreto legislativo 14 del 2019, successivamente modificato, la cui entrata in vigore è stata poi rinviata il 15 luglio 2022, e la scelta del legislatore è stata quella di portare il mondo del sovraindebitamento all'interno del codice della crisi d'impresa. Quindi sono stati modificati e importati gli istituti della legge 3/2012 inseriti in questo codice. Quindi noi oggi abbiamo nel codice della crisi d'impresa da una parte le imprese maggiori, quelle che una volta fallivano, la parola fallimento non c'è più nel codice della crisi d'impresa, dall'altra abbiamo anche il sovraindebitamento e tutti questi istituti di cui adesso vi andremo a parlare. Allora, quali sono le procedure? Già dai nomi vedete è abbastanza complicata la questione. Io adesso mi limito a dirvi che ci sono tre procedure base, che sono il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, più è stata aggiunta l'esdebitazione dell'incapiente. Allora, cosa sono queste procedure? Abbiamo delle procedure di ristrutturazione o liquidatoria. Che cosa significa? Ci sono delle procedure per le quali si cerca di andare a trovare, adesso lo dico in modo molto semplificato, un accordo con i creditori o comunque insomma ci sono delle, si cerca di ristrutturare il debito. Ci sono invece la procedura di liquidazione controllata è la procedura liquidatoria per eccellenza, è la procedura che dovrebbe costituire l'extrema ratio, ma di fatto è la procedura più utilizzata, nella quale sostanzialmente il debitore mette a disposizione tutto quello che ha, lo mette a disposizione dei creditori. E quindi se ha soltanto lo stipendio, a volte qualcuno magari ha solo lo stipendio, però mette a disposizione la parte dello stipendio che eccede rispetto alla somma che è necessaria per mantenere in modo dignitoso il sostentamento proprio della propria famiglia. Si fanno proprio i conti, c'è proprio il sovraindebitato arriva all'OCC, deve portare proprio il conto preciso di tutte le sue spese mensili, annuali, di quello che lui guadagna, di quello che guadagna il suo nucleo familiare. Cioè sì, è un lavoro molto complesso e il tribunale chiede assolutamente un grande rigore su questo, perché è un po' il cuore della liquidazione controllata. Quindi si mette a disposizione tutto quello che si ha, ad eccezione di quello che serve per vivere, detta in modo semplice. Se una persona ha anche un immobile, chiaramente lo deve mettere a disposizione. Se ha una macchina, un'automobile, chiaramente la deve mettere a disposizione, perché la domanda è sempre quella che chi arriva vorrebbe: salvare la macchina, salvare la casa. Questo non è possibile, per quel motivo che ho detto all'inizio, in quella slide emblematica iniziale con quella foto, dove si capisce che se da una parte c'è l'esigenza di liberarsi dai debiti, dall'altra c'è l'esigenza dei creditori di recuperare il credito. E quindi è evidente che se da una parte il debitore probabilmente, ma non sempre, potrà liberarsi effettivamente dei debiti, questo beneficio deve essere, però dall'altra parte ci deve essere un contrappeso, che è quello che il creditore possa ottenere tutto quello che è possibile ottenere da quel debitore. Apro una parentesi: quando si tratta della vendita della casa, è un piccolo commento che vorrei fare, importante per capire un po' la logica di questa procedura. Se un debitore, ad esempio, ha un mutuo verso la banca e non riesce a pagare il debito, e la banca procede esecutivamente per vendere in modo coattivo la sua casa, quindi la casa va all'asta, tutti gli altri creditori si insinuano e c'è una procedura esecutiva. Questa è una procedura ordinaria di esecuzione forzata, dove il creditore cercherà di recuperare il suo credito per quello che è possibile e anche gli altri creditori potranno intervenire, eccetera. La stessa vendita coattiva si può realizzare nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento. La differenza qual è? È che al termine della procedura di sovraindebitamento il debitore potrà, se ne ricorrono i presupposti, ovvero sia se meritevole, potrà avere la cosiddetta esdebitazione, che è la liberazione da tutti i debiti residui, cosa che non avviene nell'ambito dell'esecuzione immobiliare. Questo è uno dei concetti più importanti che possono far comprendere che valenza abbia che valenza abbiano questi istituti e quale vantaggio abbiano per questi debitori che non hanno più neanche la forza di vivere delle volte, perché sono veramente oberati dei debiti, non ce la fanno più, arrivano con pile di cartelle, non sanno nemmeno quali debiti hanno tante volte, c'è confusione, si trovano diciamo in una situazione dalla quale non riescono proprio ad uscire. Quindi avere questo beneficio è veramente molto molto importante, sempre per il debitore che chiaramente sia meritevole, non quello che abbia frodato, abbia commesso atti in frode, ma di questo parleremo dopo. Ecco, vi ho parlato di questa perché è l'istituto più utilizzato. Vorrei aggiungere ancora due parole sull'esdebitazione dell'incapiente. Che cosa significa essere incapienti? È il caso di un soggetto che non ha proprio nulla da offrire ai creditori. Allora, è stato inserito questo istituto, si applica, le maglie del tribunale sono molto molto strette naturalmente, perché si tratta di non offrire nulla e di essere liberato dai debiti, quindi voi capite che devono essere casi limite, però esistono situazioni dove magari è intervenuta una malattia grave. Ci sono ricorsi, ci sono anche situazioni dove i ricorsi vengono accolti. Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento? Esatto, chi può accedere? Allora, noi adesso abbiamo visto cosa sono gli OCC, grosso modo, cosa sono le procedure, chi può accedere. Quello che è fondamentale, l'abbiamo detto adesso più volte, vorrei ribadirlo anch'io, al termine di tutto il percorso c'è il tribunale, c'è tutto quello che l'OCC, i gestori e gli advisor, i professionisti che danno una mano, consulenti, tutto quello che entra in queste procedure a dare una mano, collabora nella preparazione di un documento che comunque va sottoposto a un giudice, quindi comunque l'ultima parola spetta al giudice. Questo è importante saperlo, perché spesso le persone fisiche, che sono le prime a venire da noi, non si rendono conto di questo, no? E sperano di riuscire a risolvere il problema solo con noi. No, c'è di mezzo anche il giudice, che ovviamente ha il potere decisionale. Quindi chi può accedere all'OCC? Tutti, sostanzialmente, in estrema sintesi tutti, perché tutte le persone fisiche possono accedere a un OCC nel tentativo di esdebitarsi, se hanno i determinati presupposti e requisiti. Ci sono poi delle categorie nelle quali le persone fisiche possiamo farle rientrare, sono i liberi professionisti, oppure i consumatori, quindi le famiglie, oppure anche già a livello imprenditoriale, quindi la piccola impresa, la startup innovativa, l'impresa agricola, sono proprio imprese anche iscritte al registro imprese, quindi sono soggetti assolutamente in grado di accedere a queste procedure. Gli enti no profit, quindi varie associazioni di volontariato, anche loro, se capitano in una situazione di sovraindebitamento, possono cercare di uscirne e riprendere anche la loro attività. E poi ovviamente tutte queste persone in qualche modo aggregate sono previste anche le situazioni familiari. Quindi vedete che a seconda dell'aggregazione si trova il modo di poter accedere all'OCC. L'importante è che non conta la qualifica della persona, ma la qualifica del debito. Quindi se noi adesso pensiamo a un grande imprenditore che viene da noi, non è che lo cacciamo via subito, invece tu sei un grande imprenditore, sei fallibile e quindi hai altre strade. No, bisogna qualificare il suo debito. Quindi se è la famiglia che ha un debito di consumo, quindi totalmente estrapolato dall'attività imprenditoriale, ebbene è una persona fisica che si trova sovraindebitata e si può provare a fare. Quindi si qualifica l'accesso in base al tipo di debito principalmente. Sì, una precisazione sulle procedure familiari. Allora, sono molto importanti queste e ancora veramente poco utilizzate. Quando praticamente una famiglia può presentare un'unica domanda, che vantaggio ha? Ha il vantaggio che i costi della procedura vengono divisi tra i componenti della famiglia, quindi se ciascuno di loro si rivolge all'OCC dovrà pagare un certo importo, se si rivolge alla famiglia quello stesso importo viene diviso in proporzione a cosa? Alle masse attive. E quindi si possono rivolgere all'OCC nelle procedure familiari conviventi o anche ai soggetti comunque il cui il sovraindebitamento ha un'origine comune. Ecco, sulle imprese minori non abbiamo, diciamo, approfondito, però effettivamente c'è da distinguere quelle che sono le imprese maggiori, quelle che sono cosiddette sopra soglia, sono quelle imprese che una volta si diceva possono fallire, come diceva prima il dottor Moralato, e invece quelle sotto soglia che si possono rivolgere all'OCC. Quindi una delle prime verifiche che fa la segreteria è quella di vedere, chiede il bilancio della società, se arriva una società, un'impresa, e verifica. Ci sono dei requisiti dimensionali e bisogna sicuramente escludere le imprese che non sono sotto soglia. Questo va detto, perché capita che ci arrivino anche delle imprese di dimensioni abbastanza grandi, ma non hanno chiaramente i requisiti per accedere. E ecco, abbiamo voluto dare due definizioni. Perché questo? Perché adesso il codice della crisi d'impresa nell'articolo 2 ci dice un po' tutto, no? E soprattutto ci dà delle definizioni importanti. Il sovraindebitamento comprende sia la situazione di crisi che la situazione di insolvenza. E voi capite, se l'insolvenza è la situazione dove un debitore ha già degli inadempimenti da cui e non è più in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, però la fase che precede questo, quella di crisi, dove il debitore ha una situazione di probabile insolvenza, quindi che cosa ha? Ha dei flussi di cassa, le sue entrate, prospettano il fatto che lui non riuscirà nei successivi 12 mesi a far fronte alle proprie obbligazioni. Anche lo stato di crisi consente di accedere alle OCC. Ecco perché prima dicevo, spesso si arriva troppo tardi. Bisognerebbe avere la consapevolezza, questo è legato ai temi dell'educazione finanziaria, la consapevolezza di avere, essere già in una situazione di crisi, ma nel dubbio ci si può comunque rivolgere all'OCC, perché si fanno sempre delle verifiche e l'OCC è un servizio che è istituito appositamente anche per fare una scrematura, per verificare le situazioni. Ecco. E il consumatore l'abbiamo voluto evidenziare, anche se appunto non tutte le definizioni le possiamo portare, perché il consumatore è un soggetto che agisce al di fuori del contesto professionale e imprenditoriale, e quando i debiti, come diceva prima il dottor Morelato, anche di un imprenditore, vengono contratti al di fuori di un contesto professionale o imprenditoriale, allora possiamo accedere ad una procedura come consumatore. Questa però mia definizione è veramente semplicistica, perché la materia è veramente molto complessa, le situazioni sono quasi sempre ibride e ci sono delle persone che hanno le competenze, sono i gestori, poi vi parleremo di loro, che hanno le competenze per distinguere e per insomma impostare la procedura in modo corretto. Gli OCC, devo dirlo io? Allora, gli OCC, cosa sono gli OCC? Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal decreto Ministero della Giustizia, un decreto del 2014, poi c'è anche un regolamento ministeriale. Sono degli enti, è un ente, l'OCC terzo, imparziale, indipendente, che fornisce un servizio, è un servizio di gestione della crisi. Come prima ha detto il dottor Morelato, si tratta di un passaggio indispensabile per il debitore che desidera accedere a una procedura, che poi però viene portata in tribunale. Quindi l'OCC si colloca nella fase che precede l'accesso in tribunale. Tenete presente che sono tutte procedure su base volontaria, quindi il debitore che ritiene di voler accedere a voler avere l'esdebitazione si deve necessariamente rivolgere a un OCC, che è in questo caso sul territorio in Alto Adige, vi ho detto che abbiamo due OCC al momento, e deve presentare una domanda. Che cosa chiede il debitore? Chiede all'OCC di nominare un gestore. Allora, chi è il gestore? Il gestore è un professionista indipendente. Adesso, ad esempio, presso l'Ordine degli Avvocati sono avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bolzano. Presso la Camera di Commercio sono avvocati, dottori commercialisti principalmente. Comunque, questi gestori hanno delle competenze specifiche, perché hanno anche una formazione ulteriore e anche un obbligo di aggiornamento biennale, di 40 ore di aggiornamento. Insomma, sono dei professionisti che veramente questa materia, insomma, la trattano, la studiano regolarmente e quindi la conoscono. E gli organismi che abbiamo, come detto, c'è quello della Camera di Commercio, c'è quello presso l'Ordine degli Avvocati, si trovano rispettivamente in Camera di Commercio e in Tribunale. Questi organismi sono stati istituiti, come vedete, entrambi nel 2017. I dati comunque sono pubblici, perché presso, diciamo, il Ministero della Giustizia ci sono tutti i dati che riguardano gli OCC, riguardano i gestori devono essere proprio anche diciamo iscritti formalmente in elenchi che sono appunto tenuti presso dal Ministero della Giustizia. Ecco, noi ci siamo organizzati il nostro intervento in forma di dialogo, ma potete intervenire anche voi, così al limite se ci sono delle domande diamo subito volentieri una risposta. Posso chiedere le tempistiche per avere poi una sentenza del giudice? Sì. Che termini sono? Perché ci sono situazioni di emergenza. No? Esatto. Sì. Allora, io posso dire solo per la parte, diciamo, che riguarda l'OCC, le tempistiche adesso purtroppo sono abbastanza lunghe, ma il motivo qual è? Non è il fatto, non è tanto il discorso che il gestore sarebbe anche molto veloce nel gestire la situazione, ma arrivano persone impreparate. Cioè, chi si rivolge all'OCC normalmente arriva con carte, diciamo, un plico di carte non ordinate, arriva senza avvocato, tra parentesi, l'assistenza dell'avvocato è un diritto, quindi c'è sempre il diritto di difesa, però nelle procedure come ad esempio la liquidazione controllata l'assistenza dell'avvocato è facoltativa, non è obbligatoria. Cosa succede? E questo perché la ratio è quella di contenere i costi, naturalmente. ma presentarsi in questo modo implica per il gestore che non è, anche se ad esempio il gestore è un avvocato da noi, non è di certo l'avvocato della parte, non lo può assistere, non lo può, tra virgolette, difendere, anzi è imparziale, è terzo e tante volte si contrappone perché lui fa una sorta di radio, deve fare una sorta di radiografia della situazione del debitore e tante volte deve evidenziare le criticità che ci sono. Questo è un lavoro immane, perché le situazioni, anche le più banali, sono situazioni complesse. Quindi al momento noi ci troviamo in situazione davanti all'OCC dove il lavoro dell'OCC, anziché magari essere un lavoro che si può concludere in 2-3 mesi, si conclude in un anno, perché mancano sempre, bisogna continuamente, che anche se l'OCC accede alle banche dati, ha una sua attività di impulso, un'attività istruttoria che svolge anche su proprio impulso, di fatto se il debitore non è in grado lui di portare tutta la documentazione, la porta un pochino per volta eccetera, le situazioni sono veramente difficili da gestire. Questo lo dico perché anche abbiamo organizzato l'anno scorso dei convegni come Ordine degli Avvocati, uno in collaborazione con la Camera di Commercio, rivolti ai professionisti che devono svolgere il ruolo di advisor. Noi abbiamo evidenziato la grandissima importanza della preparazione anche dei professionisti che devono essere in grado di aiutare e assistere le persone che arrivano dall'OCC, perché se il lavoro viene fatto già prima e queste persone possono arrivare con la documentazione ordinata, sicuramente si possono snellire le procedure da un punto di vista anche della tempistica. Per quanto riguarda poi le procedure in tribunale, da noi veramente funziona molto bene, nel senso che non mi posso lamentare, no. Non so, le tempistiche in tribunale di Bolzano sono veramente veloci. Il punto, diciamo, dolente è il lavoro dell'OCC. È lì invece, secondo me, i tempi sono lunghi. Non so adesso sì. Cosa ne pensa il dottor Morellato. Condivido ovviamente tutto perché abbiamo le stesse esperienze. Do due numeri. Non tanto tempo fa siamo riusciti a gestire una procedura nell'arco di 3 mesi perché la persona è arrivata direttamente con un suo consulente e una bella contabilità già tutta ordinata, con addirittura già un piano di esdebitazione, quindi un'idea di come uscire dalla situazione già pronta. E invece ci è capitato di chiudere dopo un paio d'anni una procedura d'ufficio perché la persona non è stata in grado di ricostruire il proprio debito, non è stata in grado di ricostruire con chi aveva preso, da dove ha preso i soldi, un disastro. Quindi il fattore tempo è fondamentale, quindi muoversi per tempo, e il fattore consulenza è necessario perché sì, è vero, la persona sovraindebitata, una delle reazioni, per questo che abbiamo messo questa slide, dice ma come, io sono già sovraindebitato, sono disperato e mi chiedi anche soldi. Purtroppo sì, è un servizio, la legge prevede che questo sia un servizio tra l'altro altamente specialistico perché c'è un consulente molto preparato che darà una mano, accompagnerà, ci sarà il gestore altamente preparato, quindi purtroppo un servizio ha un costo, però ovviamente se preso per tempo consideriamo il prodotto che andiamo a comprare, che è la libertà, l'esdebitazione, quindi fatto per tempo e fatto nei modi giusti, ecco perché abbiamo messo un errore che spesso ancora ci capita, di persone che pensano che una volta raccontata la propria storia all'OCC siamo noi che ci prendiamo in carico i debiti, assolutamente no, e non siamo neanche dei garanti, non è che noi garantiamo debiti, non siamo nulla di tutto questo. E soprattutto, questo l'abbiamo accennato brevemente prima, noi non siamo preparati per offrire un supporto psicologico. È ovvio, i miei collaboratori anche sono molto empatici, preparati da quello che ormai il lavoro sul campo ci ha insegnato, ma nessuno di noi ha una formazione specifica per supportare psicologicamente una persona veramente disperata, una persona al limite del suicidio anche. Quindi noi abbiamo dei contatti, ci muoviamo anche in tal senso, se qualcuno è veramente in una situazione che a nostro avviso è critica, sappiamo dove indirizzarle le persone, però gli OCC, sia l'Ordine degli Avvocati che la Camera di Commercio, sono comunque organismi tecnici, questo non va mai dimenticato. Noi purtroppo, per quanto possiamo sembrare antipatici, cerchiamo di non esserlo, però a noi ci interessano i numeri. Giustissimo, infatti sì. Tra un po' arriviamo anche al come, sì. C'è una serie di moduli, purtroppo la burocrazia sì. C'è, poi noi abbiamo delle deleghe e alcune cose dove siamo autorizzati comunque per norma, però tra 2 o 3 slide ci arriviamo. Perfetto. Avevo una domanda? Volevo chiedere sull'esdebitazione, se ho capito bene, chi rivendica il credito Ma no, allora funziona così. Adesso, diciamo, da un punto di vista tecnico non riesco qua a spiegarle come funziona tutta la procedura, però allora, non si guarda il credito più grande e il credito più piccolo. I creditori, diciamo, godono di ci sono le cause legittime di prelazione, si chiamano, non so, c'è una sorta di gerarchia, no, in base alla quale lei si immagini un creditore che ha un credito ipotecario perché ha un'ipoteca sulla casa, lui dovrebbe essere pagato per primo con il ricavato della vendita, questo per fare un esempio, mentre creditori come possono essere dei fornitori eccetera sono considerati in chirografari e non godono di questo privilegio, quindi c'è un ordine, quindi non è tanto il credito più grande, il credito più piccolo, ma il grado, se il credito, diciamo, è chirografario o se ha un privilegio, e se ha un privilegio che grado di privilegio ha. Detto questo, funziona così, la procedura, a seconda della procedura che si sceglie, perché poi chiaramente ci sono quelle dove si cerca un accordo, si fa una ristrutturazione o si può trovare un accordo con i creditori, ma quella procedura che normalmente si, e anche lì in quel caso chiaramente residono dei debiti che poi non vengono pagati, ma sono quelli per i quali c'è l'accordo, oppure nel caso della liquidazione controllata, il debitore offre tutto quello che ha, come le ho detto all'inizio, la procedura dura almeno 3 anni, nel corso dei quali il debitore deve sempre dare tutto quello che non è necessario per il sostentamento proprio della propria famiglia, solitamente è una quota dello stipendio, se ha uno stipendio o una pensione, una quota della pensione, non necessariamente quella quota corrisponde al quinto come nei pignoramenti, perché talvolta il debitore è in grado di dare di più, talvolta è in grado di dare di meno. Questo è un conteggio. Detto questo, terminati 3 mesi, chiaramente siamo nella fase adesso, perché poi il passaggio lo facciamo, dopo essere passati dall'OCC al tribunale, siamo davanti al tribunale, perché è lì che avviene l'esdebitazione, no? Decorsi i 3 anni, in questi 3 anni ci sarà, il giudice nomina un liquidatore, il quale si occuperà della liquidazione del patrimonio del debitore, e al termine di questo periodo, con la somma ricavata, questa somma verrà distribuita ai creditori in base a questa gerarchia di cui le ho detto prima, quindi c'è poi un contraddittorio, c'è tutta una procedura articolata. Ovviamente ci saranno anche al termine di tutta questa procedura dei creditori che non ricevono nulla, perché magari sono chirografari, dei creditori che ricevono solo una percentuale, quello dipenderà appunto dal grado del detto questo, se al termine di questa procedura di liquidazione, perché poi non è automatica l'esdebitazione, il giudice chiederà una relazione al liquidatore, chiederà se ci sono i presupposti, e devono esserci tutta una serie di presupposti, ed in particolare, adesso per essere con linguaggio semplice, ci deve essere un requisito di meritevolezza, ovvero sia non deve esserci una situazione dove il debitore ha commesso, mettiamo, degli atti in frode. Poi vi faccio anche degli esempi. E quindi non è automatico che al termine di una liquidazione controllata dopo i 3 anni ci sia un'esdebitazione. Non è assolutamente automatico. Questa è una cosa che deve essere saputa da chi accede alle procedure, perché è vero, se invece tutto va bene, diciamo così, e al termine della procedura il liquidatore fa una relazione dalla quale emerge la meritevolezza, il tribunale pronuncia l'esdebitazione, e allora quei creditori che sono rimasti insoddisfatti, qualcuno più, qualcuno meno, non potranno, cioè quei debiti lì verranno cancellati, ecco il concetto di esdebitazione, e si tratta sempre di debiti, noi li chiamiamo anteprocedura, cioè c'è sempre un punto di partenza che è, bisogna dirlo anche questo, non tutti i debiti, cioè quelli che sono entrati nella procedura e sono stati considerati come debiti sussistenti al momento della domanda. Prego. Ecco. Il gestore ve l'ho già detto, no? Che è la persona fisica che svolge la prestazione inerente alla gestione di questi procedimenti, la qualificazione professionale, l'obbligo di formazione e aggiornamento biennale, l'ho detto prima. Ecco, questo invece sulle cause, condizioni ostative, ne ho accennato adesso, rispondendo alla domanda, è un punto importantissimo. Perché a volte, spesso si sentono questi slogan, uscire dai debiti, liberati dai debiti, anche sui social girano queste cose. Diciamo che è un po' un abusivismo, non so come definirlo, sono degli slogan sicuramente che non corrispondono alla realtà e alla logica di questa norma. La norma vuole tutelare l'equilibrio e quindi lo scopo è sì la liberazione dai debiti, residui all'esito della procedura, però, come ho già detto, con un vaglio del tribunale. Quali sono i limiti all'accesso alle procedure? Quali sono le condizioni ostative, abbiamo scritto? Allora, qui nella slide vi abbiamo scritto in modo tecnico: avere già beneficiato di un'altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda, o avere beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte, adesso qua è stato scritto nella liquidazione controllata, poi vabbè, questi sono dati tecnici che sui quali non mi vorrei soffermare, però è molto importante nella ristrutturazione dei debiti, ad esempio, avere determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, nel concordato minore avere commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Che cosa sono questi atti in frode che impediscono l'esdebitazione? Sono degli atti volontari diretti a danneggiare o ingannare i creditori. Allora, ci sono 2 aspetti da considerare. Il primo è che quando un debitore si presenta all'OCC e al gestore che ha nominato dall'OCC, il gestore che cosa fa? Convoca il debitore, gli dice, gli fa raccontare tutta la storia, verbalizza tutto, perché attenzione, l'OCC, come vi ho detto prima, il gestore non è l'avvocato, è quello che fa la radiografia e deve sostanzialmente, a me piace dire che va a confezionare un vestito su misura, perché che cosa fa? Deve prima analizzare la situazione, fa la radiografia, vede se ci sono i presupposti e trova una soluzione. Ovviamente sceglierà una procedura, perché non è detto che la procedura inizialmente indicata dal debitore sia quella che veramente è adatta al suo caso. Se il debitore vuole, si fa assistere anche da un avvocato che lo conduce in questo percorso e insomma viene fatta questa cosa. Ma il debitore ha l'obbligo di dare al gestore di riportare tutti i dati in modo veritiero e completo. Questo è un aspetto fondamentale, è il concetto di buona fede e correttezza, che è un principio che sta alla base di queste procedure e è la condotta che deve caratterizzare, deve essere sia di tutte le parti coinvolte, quindi sia il debitore, sia i creditori, il gestore, tutti si devono comportare in questo modo. Il gestore, al termine di questo lavoro, se il debitore ha fornito tutta la documentazione e quant'altro, deve predisporre una relazione, che è una relazione importantissima, nella quale dovrà proprio impegnarsi con una sua responsabilità professionale, dichiarando che la documentazione è completa e veritiera. Non è semplice questa cosa, però chiaramente se c'è la collaborazione del debitore e il debitore porta i documenti, ecco. Cosa può succedere? Può succedere che il debitore nasconda una circostanza e quindi se poi questa circostanza viene scoperta, evidentemente questo è un elemento che diventa ostativo alla esdebitazione, perché se il debitore, intanto il debitore deve dire chi sono i suoi creditori, qual è l'importo, cioè deve essere consapevole della sua situazione, poi per carità il gestore fa tutte le verifiche, ma se il debitore omette proprio di dichiarare un debito e poi è successo, poi questo debito si scopre dopo, diventa una criticità enorme, perché quel creditore nella procedura per ottenere l'esdebitazione farà un'opposizione evidente, dirà ma come, non si è comportato, non l'ha detto, sono rimasto estromesso, ho fatto una domanda tardiva, mi è stata rigettata perché non era più nei termini. Ci sono tanti aspetti poi procedurali e questo è il primo aspetto. E l'altro aspetto è invece quando il debitore magari dichiara di avere commesso degli atti che il gestore ritiene siano atti in frode. Allora come fare? Vi faccio degli esempi concreti. Allora, una situazione dove un debitore a un certo punto cambia lavoro, riceve un TFR per il precedente lavoro e sul suo conto corrente, che chiaramente viene portato al gestore, il gestore chiede i conti correnti degli ultimi, tutti i movimenti dei conti correnti degli ultimi 5 anni, le dichiarazioni dei redditi, cioè questa famosa radiografia è effettiva. e si scopre che lui praticamente ha incassato il TFR, adesso dico una cifra a caso, 30.000 euro, e questi 30.000 euro li ha subito versati alla sua convivente, la quale aveva necessità di ristrutturare un immobile di sua proprietà. Voi capite che siamo di fronte a un atto che il gestore lo scopre, perché lui non aveva assolutamente detto niente, e gli dice: siamo nella fase stragiudiziale davanti all'OCC, dove ovviamente lì possono emergere dopo i fatti, non è quello il problema. Il problema è che se non emergono davanti al tribunale, cioè se vengono celati al tribunale, quello è il problema. Allora, questo atto come lo vogliamo qualificare? Adesso qui si apre tutta una questione giuridica che vi risparmio, ma evidentemente se il debitore dice: io sono in buona fede, io questa cosa l'ho fatta, è un'enorme criticità, poi le strade possono essere le più varie, quella di proseguire comunque evidenziandolo al tribunale, sperando che il tribunale e i creditori insomma non si oppongano o meno, ecco. Comunque questi sono alcuni, questo è un caso, un esempio di una cosa che può capitare oltre a quella del creditore non dichiarato, eccetera. Quindi gli atti in frode e il concetto di meritevolezza viene sempre valutato dal giudice. Io poi ho portato anche delle sentenze, ma vi accenno ad esempio nel caso di una esdebitazione del sovraindebitato incapiente, quello che non può dare nulla alla procedura. Allora, in questo caso il Tribunale di Bergamo, quando siamo nel 2023, analizza il requisito della meritevolezza e dice che in questo caso c'è un indebitamento che deriva da gravi e reiterate omissioni tributarie che il debitore non ha neppure rappresentato nella domanda. E quindi evidentemente in questo caso non viene concessa l'esdebitazione. E, ribadisce che il giudice deve verificare la meritevolezza del debitore, quindi assenza di atti in frode, la mancanza di dolo, la mancanza anche di colpa grave nella formazione del sovraindebitamento. E in queste procedure dove non si ha nulla da offrire, ovviamente c'è un rigore particolare, imponendosi al ceto creditorio un sensibile grado di sacrificio che quantomeno deve essere bilanciato dal positivo riscontro di un'apprezzabile diligenza del debitore persona fisica nell'assunzione delle obbligazioni. E torniamo a quella slide di apertura, cioè il concetto è questo: da una parte c'è un sacrificio, dall'altra c'è un bilanciamento con una diligenza. Se il debitore non è diligente, addirittura commesso atti in frode, ecco, c'è una particolarità, ecco, magari ve la voglio dire. Tornando all'esempio di prima, allora, nell'ambito ad esempio della procedura di liquidazione controllata, quando si va davanti al tribunale, il liquidatore ha dei poteri, ad esempio adesso ha anche il potere di agire con un'azione revocatoria, cioè va sostanzialmente a recuperare i soldi che sono usciti, poi bisogna vedere se riesce a recuperarli, perché un conto è poterlo fare, un conto è se di fatto sono stati già tutti spesi nella ristrutturazione e la signora non ha più nulla, quindi anche se il liquidatore si attiva non riesce a recuperarli. Questo per dire che a volte c'è la possibilità di agire da un punto di vista civilistico per recuperare il credito, eccetera. Ma invece l'atto in frode è un qualcosa di più, perché l'atto in frode rimane ugualmente se è un atto fatto in modo volontario, cioè se c'era la volontà di ingannare i creditori. È difficile da dimostrare, è difficile, questi sono poi tutti degli aspetti che davanti ai tribunali si vanno a discutere. Però ve lo volevo sottolineare, perché comunque i soldi magari si recuperano, ma non è detto che l'esdebitazione si ottenga. Ecco, sull'esdebitazione bisogna essere abbastanza prudenti. È un bel sogno l'esdebitazione, ma non sempre realizzabile. Bene, abbiamo gli ultimi minuti a disposizione, ovviamente se ci sono domande. Sì? Buonasera. Prego. Sì, grazie. Dicevo, io sto cercando di capire qual è il ruolo dell'Istituto di Statistica o dell'Astat locale per quanto riguarda i prestiti degli istituti di credito alle persone fisiche, quindi alla cittadinanza, alle famiglie, che vengono bloccati perché, a detta dell'Istituto di Statistica o dell'Astat, certi parametri, no? non rientrano in quelle che sono le disponibilità economiche delle persone. Quindi, secondo questi istituti, non si potrebbe vivere, e quindi il prestito viene bloccato per questo, perché una certa cifra economica non è possibile, insomma. E quindi chi si rivolge a questi istituti di credito si sente rispondere e purtroppo non è possibile. E poi eventualmente la considerazione che vorrebbe continuare i contenuti che voi ci avete portato questa sera. Grazie. Grazie. Gli istituti di statistica con il blocco di un eventuale prestito perché ci sono determinati requisiti che potrebbero dare idea che magari qualcuno non ce la fa, è ancora prima del nostro istituto, cioè qui siamo molto in avanti, nel senso che intervengono dei parametri stabiliti da, non so, professor Pugliese se magari sa come vengono stabiliti questi parametri, però questi sono dei parametri, vengono stabiliti a livello macroeconomico, dove dice attenzione, se tu rientri lì dentro sei a rischio. Quindi probabilmente una persona che rientra comunque, riesce ad avere lo stesso il prestito, rientrerebbe in una di quelle slide che avevo io all'inizio, quindi una persona che può vivere serenamente in equilibrio, ma che al primo inciampo potrebbe finire in una specie di catena complessa. Io salterei, per spiegarlo forse meglio, salterei direttamente a questa slide nostra che l'avevamo preparata finale. Qual è lo scopo di questa norma? Lo scopo di questa norma non è quella di proteggere il singolo, questo dobbiamo capirlo bene. La norma protegge il sistema dal singolo. Perché la norma cosa dice? C'è questa prima immagine della catena. Se io in un sistema economico ho un anello debole e questo anello debole si spezza perché forse ha ricevuto lo stesso il prestito, ma i parametri dicevano meglio se non lo prendevi, e questo anello diventa questo filino di ferro debole debole, che cosa succede? Questo anello si spezza. Magari è un piccolo imprenditore questo che ha comprato a rate un furgone, che magari ha un collaboratore che non riesce più a pagare. Questo collaboratore ha detto vai che bello, ho un lavoro, si è comprato la casa col mutuo ma non riceve più lo stipendio, e quindi abbiamo questa idea della pietra gettata nello stagno che comincia a creare queste onde. Ecco allora che interviene la norma e si va su questa seconda immagine e dice io sì, sto cercando di proteggere il singolo, quindi anche l'esdebitazione, che cosa ha? Qual è il significato dell'esdebitazione? È quello di ridare l'entusiasmo alla persona esdebitata. Quindi prendiamo il classico giovane imprenditore, 30 anni, ha fatto il suo percorso di studio, ha fatto la sua esperienza lavorativa, comincia a mettersi in proprio, ha un sacco di entusiasmo, gli va male una volta, viene esdebitato, ricomincia, riporta lo stesso entusiasmo, stavolta gli va bene, questo crea ricchezza, crea posti di lavoro, crea gettito fiscale ed è un elemento forte nella nostra catena. Se invece non funziona, è necessario che questo elemento debole venga tolto. Però tutto questo succede dopo che abbiamo già avuto il problema. I parametri servono a non arrivare a quel problema. Poi ci sono degli scienziati che li studiano, se sono troppo stretti, sì, purtroppo sì, può succedere. Dal 2011 i parametri sono leggermente diversi, perché con quello che è successo negli Stati Uniti anche l'Europa si è adeguata in un certo modo, però in realtà il debito, qui in questo caso si parla sempre di debito privato, l'impatto debito privato e debito pubblico, totale debito aggregato, opinione personale, gli stati andrebbero giudicati sul debito aggregato, non solo sul debito pubblico. Mia opinione personale, perché la ricchezza privata copre delle cose, può coprirle, per una serie di motivi. Il nostro paese ha un elevato debito pubblico, ma ha un bassissimo debito privato. Significa che queste soglie che voi avete visto, che comunque sono strutturate in un certo modo, più o meno sono abbastanza basse. Poi lì è vero che c'era anche l'Austria e la Germania, che potremmo aprire dei ragionamenti. Questo è stato fatto anche per questo motivo qua, perché gli Stati Uniti davano credito senza avere delle vere garanzie. Quindi la crisi dei mutui, per rimanere nell'attualità, ha fatto collassare altro che sovraindebitati lì. Quindi questo è stato uno dei problemi. È chiaro che l'intervento che hanno fatto loro, come anche la fase storica che aveva spiegato l'altra volta il professore sulla parte del debito pubblico, che comunque se non controllato, dà dei problemi gravi anche quello, ma la parte loro è proprio la parte a cui ci si, cioè, si arriva quando la situazione è disperata. Cioè, è proprio per questo che stiamo tutti a fare una rete qui, perché se facciamo una buona fase iniziale di educazione economica, di impatto e anche di non spreco di risorse pubbliche, quindi l'altra volta abbiamo visto la crisi, come l'ha spiegata il professore, anche sulle risorse pubbliche, mica quella non va bene, in più ci mettiamo questo e ovvio che abbiamo questi strumenti, quando loro dicono, infatti su queste slide ci ho riflettuto mentre le facevano vedere, quando loro dicono noi non siamo un ente che eroga psicologia spiccia, ma ci occupiamo dei numeri, è bene che rimanga così, perché non deve diventare un ente di carità questo, perché non è proprio lo scopo. Quindi è proprio un ente che serve per gestire delle situazioni che apparentemente per una persona, tra virgolette, sono ingestibili. Quindi quando hai un soggetto che vai a scoprire che fa i giochini perché sposto soldi eccetera, non c'è più neanche una buona fede, esiste anche una mala fede, lì non c'entra niente l'educazione finanziaria, lì c'entra che tu sai perfettamente che l'erario viene a pigliarti i soldi e in anteprima li sposti da un'altra parte. Allora se facessero tutti così, mandiamo un pallone lo Stato e loro perdono tempo. Quindi secondo me hanno fatto bene a dare questa chiave di lettura, ed è bene anche dire e spiegare perché i parametri sono così. Cioè non è una questione di essere cattivi, è una questione che quelle persone che arrivano lì hanno una parte sicuramente patologica e quella dovrebbe avere un percorso parallelo, ma ci sono i percorsi, la ludopatia ha tutto il loro percorso, ma la loro funzione è proprio questa, una funzione anche di trasparenza e di garanzia. Nel paradosso loro sono i garanti del sistema, cioè di tutti noi. Loro non sono i garanti di quello che va lì e dice io non riesco più a pagare, pagatemeli voi, perché sapete, poi quel tipo di persona che ha quel tipo di ragionamento dobbiamo farlo uscire dalla vergogna, come diceva il professore l'altra volta, che la vergogna non c'era dobbiamo farlo uscire dalla vergogna, però da un altro punto di vista dobbiamo farlo anche ragionare, perché una persona poveretta che si ammala e non riesce a pagare le rate e ha due rate, è ovvio che sia in buona fede e sono il primo io che sarei pronto a staccarmi il 2% dello stipendio. Ma chi ha fatto i giochini, come qualcuno a Milano che faceva apposta a indebitarsi perché le banche poi non gli chiedevano indietro nulla perché avevano paura di fallire loro, non è che può andare poi da loro a chiedere ma scusa, datemi una mano, perché quello dovremmo ingabbiare, scusate. Non vorrei essere troppo tranchant, però così no, comunque per darti la spiegazione, cioè secondo me bisogna stare su quello che hanno detto loro, perché quei parametri poi macroeconomici eccetera sono da studiare in un altro giro di forse altre conferenze, dove anche loro potrebbero essersi amici, o anche col professore, per esempio la storia del debito sarebbe interessante, perché a tutti interessa debito pubblico e debito privato dal punto di vista storico e capire come si è arrivati a certe situazioni. Adesso, scusa se ti continuo a citare, ma era per far vedere che eravamo tutti e tre sulla stessa barca, che non affonda la nostra, però che è bello. Ecco, so se sono stato esaustivo. Sì, se non ci sono altri interventi, volevo appunto, come dicevo prima, questa breve considerazione che nasce da quello che avete detto e anche dal perché all'ingresso ho trovato questo volantino agenda audiovisiva, dove vengono proiettati delle materiali audio video qui al Centro Trevi, e proprio perché c'è un documentario che si chiama Lasciateci fare, che ha come sottotitolo Genesi, declino e rivalsa dell'ideologia che domina il mondo, e tratta appunto questi argomenti, no? Con la crisi del 29, del 2011, auspico che si possa magari proiettare anche in queste strutture, e magari auspicando sempre il coinvolgimento anche delle sovrintendenze che hai citato tu prima, Marco, e la Camera di Commercio, anche l'Università e l'Ordine degli Avvocati, portare avanti tutta una serie di iniziative per coinvolgere la cittadinanza, perché sono sempre pochi negli anni, si contano sulle dita di una mano, insomma, e per spiegare appunto lo stato di fatto reale. E questo documentario in un'ora e mezza, realizzato senza fini di lucro nell'interesse pubblico, cerca di spiegare quello che è avvenuto negli ultimi 250 anni dal modello di capitalismo moderno, specialmente negli ultimi 50. Proprio riprendendo anche il caso Italia con Enrico Mattei, l'assassinio di Pasolini, eccetera. Grazie. Grazie di questo spunto, veramente interessante. Io devo ancora una risposta, perché sono le 19, quindi alcune slide le abbiamo saltate, devo ancora una risposta su come si presenta e su qual è il ruolo. Quindi ovviamente i due organismi lavorano assolutamente sulla stessa norma, quindi siamo uguali. Tanto per vedere, cioè, ci presentiamo proprio così: esiste la Camera di Commercio, esiste l'Ordine degli Avvocati, lavoriamo con la stessa legge, lavoriamo con gli stessi documenti, sui nostri siti internet si trovano tutte le informazioni che servono, si trovano anche i modelli per fare la domanda, e allegati a questi modelli per fare la domanda, che sono corposi, sono diverse pagine, ci sono tutta una serie di delega, la delega per accedere alle banche dati, come lei aveva chiesto prima, ma anche le deleghe più conosciute ormai, come l'accesso privacy, documenti privacy, insomma tutta una serie di autorizzazioni che ci vengono date, a parte quelle ovviamente già concesse dalla norma. Poi una volta con quella domanda, sono più di 20 pagine insomma, una volta fatta questa, con quella siamo autorizzati noi come OCC e il gestore a procedere. Quindi sì, è vero, ci viene data una delega molto ampia. E c'è un pagamento dell'istanza che è stato, o è relazione? Sì, tutte e due, nel senso che la normativa prevede ovviamente un costo. Questo costo ha un costo base, che è un diritto di segreteria di accesso all'inizio con qualche marca da bollo, eccetera, e poi un calcolo molto complesso su attivo e passivo, quindi l'attivo incide di più, il passivo incide un po' di meno, e ovviamente sì, c'è un pagamento che è dovuto, proprio viene calcolato. So, Eleonora, se vuoi andare tu, io faccio intanto vedere la slide, perché questo è il lavoro che fa la segreteria, si arriva a calcolare un preventivo. Adesso il gestore della crisi vi spiega esattamente come si calcola il preventivo, se abbiamo ancora due minuti, per poi arrivare alla firma di questo preventivo, e la firma del preventivo è la firma di un contratto. Quindi da quel momento lì noi siamo operativi e, ahimè, la persona che ha firmato è obbligata a pagare. Sì. Ma adesso c'è un altro debito. È un altro debito, però è in prededuzione. Diciamo che allora non si può pensare che queste siano delle, diciamo, delle attività gratuite, perché potrebbero essere sostenute, quello sì. Ci sono delle formule, adesso non abbiamo il tempo di esporlo. E, allora, adesso, essendo già le 19.03, non penso di riuscire a spiegare un preventivo come si formula, però quello che è importante dire è che nella domanda la cosa più importante, perché la domanda richiede un sacco di indicazioni, ma quello che è importante è indicare l'attivo e il passivo sulla base di queste due, quello complessivo naturalmente, quello che il debitore ritiene di avere. Logico che nel momento in cui ci sarà poi l'attività del gestore, è proprio quello che vi dicevo, di confezionare questo vestito su misura, analizzare tutta la situazione, può essere che emerga una situazione diversa da quella che era stata indicata nella domanda, ma non è un problema. Si può rivedere il preventivo e adattare alla situazione reale. E in linea di massima possiamo dire che all'incirca, quando diciamo, possiamo individuare una situazione standard dove più o meno viene richiesto il pagamento di un acconto di 800.000 euro all'inizio. Chiaramente poi dopo c'è tutta la procedura davanti al tribunale. Cosa succede davanti al tribunale? È un liquidatore, o comunque nella procedura di liquidazione controllata di cui prima vi ho parlato, che farà la graduazione dei crediti ammessi al passivo e considererà anche le spese dell'OCC, e quindi quelle spese lì, quei compensi dovranno essere liquidate da un giudice ed entreranno comunque in un piano di riparto, per cui evidentemente poi in base a quello che è l'attivo e il passivo, chiaro che avranno una situazione, verranno pagate prima degli altri. Quindi quello che deve subito avere a disposizione il debitore è una somma che più o meno, a seconda della procedura, ma si aggira intorno ai 1.000 euro, direi. Sì, all'incirca. È un nuovo debito, è stato detto, ma ci ricolleghiamo a quanto è stato detto all'inizio. È un servizio che va attivato tempestivamente, non quando non ne ho proprio più. cioè va, quando comincio a essere in difficoltà, perché quando proprio non ne ho più, cosa succede? Ho il commercialista che non lo sto pagando già da magari da un anno, non c'è più nessuno che mi fa consulenza, a quel punto lì mi metto spalle al muro, divento un caso sociale, mi faccio aiutare dalla Caritas, per dire. Questa è una procedura altamente specializzata che va attivata tempestivamente, proprio per evitare che nasca il problema. Quindi per questo che noi siamo anche contenti di queste iniziative, perché riusciamo a sensibilizzare sul fattore tempo. Sì. Quando abbiamo cominciato a parlare di soldi, il cagnolino ci ha guardato. No, perché lo scopo alla fine è quello di ricollocare il debitore nel sistema economico-sociale senza questo peso delle pregresse esposizioni, quindi questa ripartenza, si parla sempre della ripartenza, consente poi, come abbiamo visto nell'ultima slide di chiusura, di avere di rafforzare l'intero sistema economico, e questo è lo scopo. E qui abbiamo appunto i due siti, Camera di Commercio e Ordine Avvocati. Purtroppo il tempo non siamo riusciti proprio ad esporre tutte le slide, ma abbiamo fatto il possibile. Speriamo di avervi dato delle indicazioni utili, soprattutto non tanto per la presentazione delle domande, ma per la corretta presentazione delle domande, perché chi presenta una domanda sia consapevole che è un percorso impegnativo e non è scontato, insomma, bisogna attivarsi in un certo modo. Io direi che siete stati bravissimi, perché nei tempi stretti ed esigui siete riusciti a spiegare veramente quella che è l'occasione, una possibilità per chi si trova in difficoltà prima ancora di trovarsi con le spalle al muro, ma anche per tutelare la società, appunto, per evitare che si spezzino delle catene e che la salute anche dell'economia collettiva venga intaccata, ahimè, come purtroppo a volte succede. E vi ringrazio per la competenza, per la chiarezza di questa trasmissione di contenuti, che non è scontata, insomma, a volte è difficile, no, trasmettere certe informazioni complesse, e quindi anche per il vostro servizio. So che questo appuntamento in altre formule e in altre sedi verrà ripetuto, quindi non è l'unica occasione che avrete per ascoltare, per sapere o avere delle informazioni, ma poi potrete anche rivolgervi direttamente agli organismi qui rappresentati questa sera. Ne approfitto sempre per rinnovare l'invito a tornare anche domani, perché avremo la presentazione del libro di Giacomo Sartori, Sillabario della Terra. Sarà con noi un collega della provincia, Giulio Angelucci, e sarà una serata dedicata alla sostenibilità ambientale e anche economica di nuovo, perché è tutto un cerchio, è tutto un circuito che ci piace anche sostenere da un punto di vista culturale. Bene, grazie, davvero, complimenti, grazie a voi per la vostra attenzione e partecipazione.